Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è Italia in controluce, la seconda delle due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Poche eccellenze, tante irregolarità, una giungla di strutture private non controllate, almeno 700 strutture fantasma. È la fotografia delle case di riposo in Italia scattata dalla prima indagine nazionale sulle residenze per anziani, firmata Hauser. Maria Luisa Pezzali. Sono la signora Trenfield, 82enne, vedova, molto lieta. Sono soltanto in visita qui, con la mia amica. Siamo vicine di casa da più di 30 anni. Dopo la morte di suo figlio, sua nuora ha voluto farla trasferire qui alla casa di cura e mi hanno chiesto di venire a dividere la camera con lei. La signora Otis non lo sa, ma io me ne torno a casa appena lei si sarà un po' ambientata. Il problema prima o poi ci riguarderà tutti, perché la popolazione italiana invecchia sempre di più, perché facciamo pochi figli e le speranze di poter contare su di loro in vecchiaia, con case sempre più piccole e ritmi di vita frenetici, si affievoliscono, perché l'assistenza domiciliare è una chimera. Nel nostro paese per le case di riposo la domanda è in crescita costante. Oggi 32 anziani su 1000 vivono in un istituto, valori che crescono fino a 84 anziani su 1000 in Friuli Venezia Giulia. Mentre in Sicilia, la regione con il più alto tasso di diffusione di strutture socioassistenziali, gli ospiti non superano quota 11 ogni 1000. Lo rivela la prima indagine nazionale sulle case di riposo effettuata dall'Hauser, associazione che da anni si occupa di tutela degli anziani. È la fotografia di un universo con poche eccellenze e molte irregolarità, poca presenza pubblica e troppo business privato non controllato. Un mondo in cui gli anziani vengono troppo spesso considerati cittadini di serie B. Il primo dato che colpisce riguarda il numero delle strutture, una giungla di cui è impossibile conoscere il numero esatto, con prestazioni e tariffe fuori controllo. Per gli elenchi regionali tra pubbliche e private sono 3.374, 5.858 secondo il Viminale, dati 2008. Ma sulle pagine gialle se ne contano 6.389, alle quali vanno aggiunte altre 326 che provengono dagli elenchi delle Camere di Commercio. Totale 6.715 strutture tra residenze assistenziali e residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti. Ci sono poi almeno 700 strutture di cui si conosce poco o nulla. Non sono negli elenchi, non sono accreditate, non sono in possesso di autorizzazione. Case di riposo fantasma. Il presidente dell'Hauser, Michele Mangano. Sono quelle che sfuggono alle autorizzazioni e agli accreditamenti dei comuni. Sicché cosa succede? Che magari si intravede l'affare, chiamiamolo affare, della casa di riposo. Molte persone vanno ad affittare appartamenti molto periferici, li ristrutturano alla bella e meglio e li trasformano e li individuano, li indicano come casa di riposo, senza nessuna autorizzazione o accreditamento. Ora, è chiaro ed evidente che su questo bisogna fare molta attenzione. Noi abbiamo infatti attraverso l'indagine indicato un vademecum ai familiari che intendessero, alla stessa persona anziana che intende andare in casa di riposo, alcune regole da seguire per avere appunto una, quantomeno una rassicurazione sulla serietà insomma della casa di riposo. Ci sono grandi punti di criticità che riguardano sostanzialmente alcuni aspetti, tipo per esempio la questione igienico-sanitaria, la questione delle figure professionali che spesso si sommano alla stessa persona. L'impiegato nella casa di riposo fa dall'infermiere spesso all'inserviente e quindi questo è un elemento. Se ci sono i requisiti igienico-sanitari all'interno della mensa, l'ubicazione stessa della casa di riposo, che spesso è estremamente periferica, lontano dai centri e quindi diventa una forma di segregazione. Dunque punti di criticità esistono e vanno soprattutto affrontati, perché spesso non si è in grado, insomma, gli stessi familiari o non sono in possibilità di non intervenire, o spesso si tratta di anziane persone sole, dunque c'è la necessità di esercitare un maggiore controllo per la qualità della prestazione erogata. Nel 2010 i carabinieri del NAS hanno passato al setaccio 863 case di riposo, rilevando irregolarità consistenti in quasi 300 strutture, tra autorizzazioni mancanti, numero di anziani eccessivo, condizioni igieniche inadeguate e attività infermieristiche esercitate in modo abusivo. il comandante dei NAS di Roma, Marco Datti. Capita ancora oggi che spesso le case di riposo sono realizzate in costruzioni edilizie completamente abusive, isolate, fuori quindi da ogni possibile controllo, se non sollecitati in questo senso da parenti degli ospiti che notano qualcosa di strano. E spesso capita che all'interno di case di riposo troviamo persone alloggiate che invece dovrebbero essere ospitate in strutture a valenza sanitaria, cioè in RSA, in residenze sanitarie assistenziali, perché presentano delle patologie per cui non possono permanere in una normale casa di riposo, ma devono necessariamente essere sottoposti a trattamenti medici per le patologie di cui appunto sono affetti. Ancora oggi purtroppo capita con una certa frequenza che i pasti siano del tutto improvvisati, cioè non attagliati alle particolari condizioni di età e patologiche che possono colpire queste persone che ovviamente sono in avanzata stato di età, quindi senza alcuna tabella dietologica, senza essere seguiti da nutrizionisti o da dietologi, ma anche con alimenti scaduti di validità da mesi o comunque mal conservati, non correttamente mantenuti nel rispetto delle temperature previste. Non è frequentissimo, per fortuna, negli ultimi tempi, però capita ancora oggi di trovare strutture che non vengono mantenute in condizioni di igiene normali, sufficienti. Spesso anche gli ospiti che magari non sono perfettamente autosufficienti non vengono adeguatamente accuditi, quindi vengono lavati soltanto sporadicamente, non vengono sottoposti a programmi di inserimento, a reinserimento sociale, di un minimo di attività fisica, ma vengono, per esempio, capitano delle realtà in cui gli anziani vengono messi già dal primo pomeriggio a letto e li vengono lasciati per tutto il giorno. La giungla è anche nelle tariffe, che possono variare dai 1.200 euro fino agli oltre 4.000 euro al mese. Un business che fa gola a molti. Abbiamo anche trovato dei casi in cui gli anziani erano letteralmente terrorizzati, basta la vicinanza a loro che alzavano le mani a difesa del viso, insomma, quindi chiaramente spaventati. Ci troviamo di fronte a gente che spesso, pur di arricchire il proprio portafoglio, non hanno alcuno scrupolo, fanno qualsiasi cosa. L'Italia è agli ultimi posti in Europa nell'assistenza domiciliare. Manca una legge che definisca con precisione per chi e quando debbano essere garantite cure a domicilio. Le ASL e le regioni fanno da sole, ognuna con modalità diverse. Il risultato è che l'anziano, anche quando potrebbe essere curato a casa propria, viene ricoverato in ospedale, nelle RSA o nelle case di riposo. Ecco allora che in questo scenario fanno notizia anche i casi di eccellenza, come il centro sociale residenziale di Lastra a Signa, provincia di Firenze. Una residenza modello nata 30 anni fa sulla scia delle esperienze nordeuropee, gestita dal comune, che spende per ogni ospite solo 5.000 euro all'anno. 61 mini appartamenti in cui gli anziani possono portarsi le proprie cose e vivere in libertà e autonomia, ma protetti. La spesa varia da un minimo di 40 euro al mese per i singoli a un massimo di 240 per le coppie, tutto compreso. La responsabile del centro, Leonora Biotti. Noi facciamo in modo che prima di tutto i nostri anziani facciano di tutto per essere autonomi. Non ci sostituiamo in niente che loro possono fare da soli. Questo è un posto aperto, accessibile a tutti dall'esterno. Ogni residente ha le chiavi di casa propria e ce l'hanno loro e basta, al massimo i figli. Tutto questo negli anni è stato osservato che una situazione in cui viene spronata l'autonomia, una situazione in cui c'è un livello alto di socializzazione, anche una situazione abitativa priva di barriere architettoniche, logisticamente situata in un luogo del paese in cui ci sono tanti servizi, ci sono centri commerciali vicino, la ASL, insomma, è un contesto che di fatto posticipa la non autosufficienza. È fondamentale la possibilità di scegliere ad esempio se stare soli o stare in compagnia. Qui c'è questa possibilità, perché chi vuole stare solo comunque decide di o non uscire di casa o comunque di non partecipare alle attività di socializzazione o semplicemente di non stare nelle sale, perché qui ci sono ampi spazi comuni. Chi invece decide di stare in compagnia perché questo si sente, lo può fare. La possibilità di scegliere penso che nella vita sia una delle cose più importanti, no? Diciamo che è un bellissimo esempio di prevenzione. L'autosufficienza è un elastico che si può allungare il più possibile e di fatto è vero, e questo posto è la dimostrazione di questo concetto. Di fatto qui con pochissimo è possibile poter vivere in autonomia da soli anche a 90. 40 anni. Si vive di più e si vive meglio. Italia in controluce termina qui, era la seconda edizione, cercateci naturalmente su Facebook, Twitter oppure comunicate con noi via mail controluce radio24.it. Domani 6:30 su Radio 24.